Allora, siano lodati Gesù e Maria. Allora, la volta scorsa abbiamo concluso lasciando Mosè, ecco, morire senza entrare nella terra promessa a causa dei suoi peccati, ecco che ognuno ha i propri, e quindi morto Mosè, il Signore ha incaricato come successore di Mosè, adesso lo vedremo subito, Giosuè. E Giosuè è stato colui che ha introdotto di fatto Israele nella terra promessa. Quindi vi ho accennato, noi l'Antico Testamento lo seguiamo, ovviamente stasera vedremo il libro di Giosuè, che è appunto subito dopo il Pentateuco, che vi ricordo Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, è il primo libro dopo il Pentateuco, che è appunto il libro che narra la conquista della terra promessa e sotto l'egida di Giosuè. Tenete presente che Giosuè in ebraico è Yeshua, cioè lo stesso nome di Gesù, uguale, identico. Probabilmente è stato tradotto Giosuè proprio per estimatore, bisognerebbe tradurlo Gesù, perché in ebraico è lo stesso ed identico nome. L'incaricato quindi da parte di nostro Signore di introdurre Israele nella terra promessa. Quindi dell'ingresso di Israele nella terra promessa si narra nel libro che porta il suo stesso nome, che è appunto il libro di Giosuè, che questa sera vedremo un po' nel suo insieme fermandoci su alcuni passi salienti, anche commentandoli e vedendo come sempre anche attraverso questa esperienza delle battaglie per entrare nella terra promessa si manifesta non soltanto l'opera di Dio ma anche molte verità che sono importanti anche per la nostra vita, per cui possiamo subito procedere. Allora, ecco, poi capiremo cos'è questa immagine nel futuro. Allora, andiamo subito a vedere la vocazione e la missione di Giosuè, quindi come spunta fuori, che è il primo capitolo appunto del libro di Giosuè, che adesso andremo a vedere. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè: Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque, attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso la terra che io do loro, agli Israeliti. Ogni luogo su cui si poserà la pianta dei vostri piedi ve l'ho segnato come promessa a Mosè. Dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, l'Eufrate, tutta la terra degli Ittiti, fino al Mar Grande dove tramonta il sole, tali saranno i vostri confini. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te, non ti lascerò né ti abbandonerò. Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso? Non aver paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te dovunque tu vada. Ci fermiamo qui. Allora, vedete che questo racconto della vocazione ha alcuni aspetti simili alla vocazione di Mosè, ma altri un po' differenti, cioè c'è un'accentuazione qui dell'assistenza del Signore e del coraggio e della forza che è necessario per compiere l'impresa di conquistare la terra promessa. Penso che abbiamo già visto negli scorsi incontri, però se non l'avessimo già visto è bene ricordarlo adesso in questa sede, che l'esodo e la conquista della terra promessa sono esperienze reali che ha compiuto il popolo di Israele, ma come sempre accade nella storia biblica, Dio prende un episodio realmente accaduto, quindi non date retta agli esegeti che negano tutto, perché sono tutte vere le cose che stiamo ascoltando. E, però per farne, al di là dell'evento storico accaduto, un fatto si può chiamare simbolico, ma è meglio ancora tipologico, cioè è uno specchio in cui poter ammirare di riflesso ciò che accade a noi. Cioè noi abbiamo una situazione di esilio, quindi di lontananza dal Signore, e una situazione di vicinanza dal Signore. Una rappresentata dall'Egitto e l'altra rappresentata dalla terra promessa. D'accordo? Ecco. Tra questi due ponti ci sono, c'è il deserto, l'abbiamo visto la volta scorsa, e poi c'è l'ultima tappa che è l'assalto, la guerra per conquistare le roccaforti nemiche. Se voi conosceste gli scritti, come spero che conosciate, di San Massimiliano, per esempio Maria Kolbe, questo per farvi capire l'immagine, lui dice una cosa, cioè quando una persona si vota completamente alla Madonna non si limita a giocare in difesa. Quindi giocare in difesa vuol dire stare lontano dai peccati, ma gioca di assalto, quindi cerca di sfondare le linee nemiche. Spero che stiate capendo la metafora. Anche nella vita, come dire, ascetica, quindi nel nostro cammino di santificazione, sono due momenti. Uno, come dire, si gioca in difesa, che è rappresentato dal deserto. Vi ricordate cosa fa Israele nel deserto? Cade in tentazione, pecca. Quindi la prima fase della nostra vita cristiana consiste nell'imparare a resistere alle tentazioni, quindi nel non peccare più, cosa che è possibile. Non è possibile a noi, perché siamo figli di Adamo, non peccare mai, d'accordo? Però un conto sono i peccati che si chiamano di debolezza o di carattere, d'accordo? Quindi quelli compiuti non in materia grave, senza piena avvertenza o senza deliberato consenso. Un conto sono i peccati volontari, ancora un conto ancora più grave sono i peccati mortali. Prima tappa. Moltissima gente pensa, dice, va bene, non faccio più tanti peccati mortali, è finito. E no, non stai ancora nella terra promessa. Però nella terra promessa bisogna combattere alcune battaglie e vincere alcuni nemici. Quindi non c'è soltanto la fase negativa della vita di santificazione, c'è la fase positiva. Quindi non c'è soltanto la rinuncia al peccato, ma c'è l'acquisto delle virtù. Per cui bisogna lottare, e vedremo come, si lotta con dei sistemi. C'è la presa di Gerico, vi prego, tra poco ci arriveremo, che io una volta ci feci 4 ore, ma forse 3 ore di meditazione, sì, quindi, perché c'è bisogno di una luce, quindi vedere come fanno gli israeliti a conquistare Gerico è vedere la strategia che si deve utilizzare per far cadere le roccaforti nemiche, cioè gli ostacoli che ci impediscono di proseguire e di procedere nel cammino verso la santificazione nostra e personale. Ok, a questo punto procediamo. Ora, primo traguardo di Israele, il passaggio del Giordano. C'era stato, quindi vedete che ci sono due passaggi. C'era stato il passaggio del Mar Rosso, quindi l'uscita dalla schiavitù alla libertà. Un passaggio miracoloso, perché sembrava impossibile, perché Israele si trovava, vi ricordate, assediato dagli egiziani e con davanti lo sbarramento del mare. Dio fa un miracolo e li fa passare. Questo ci fa capire, oggi facciamo un po' di catechesi molto esistenziale, quindi, però guardate che tutte queste cose qui non sono di Don Leonardo, d'accordo? Andate a leggere tutti i padri della Chiesa che ci hanno speso fiumi di inchiostro, tra l'altro pure a China, che si faceva pure più fatica, non c'erano manco i computer all'epoca, quindi Don Leonardo tiene presente che è sempre un pappagallo, quindi non dite che belle queste cose, non sono cose mie, d'accordo? Ecco. Allora, passano, quindi, e questo si fa capire che già la prima conversione, diciamo così, quindi la prima chiamata, quindi lasciare il male per incamminarti verso la via del bene, è una grazia di Dio. C'è un intervento diretto di Dio, che se non ci fosse stato sarebbero tutti quanti morti. In teologia ascetica, chi fa questo passaggio entra nella categoria dei cosiddetti principianti, quindi di quelli che Perché magari c'entrassero tutti quanti, ecco. Però quando uno si è messo in Egitto, cioè la schiavitù è oppressiva, noi non possiamo peccare a buon mercato, perché se tu pecchi mortalmente la tua anima appartiene al diavolo, il diavolo ci mette le grinfie sopra e te si attacca come una zecca e non si stacca da lì. Perché questo distacco avvia e venga, c'è bisogno di un intervento diretto di Dio, di una grazia attuale. Per questo che viene fatto il miracolo del mare, per farci capire questa cosa. Poi c'è un altro qui. Allora, chi va all'assalto, quindi chi non si accontenta, dice vabbè, a messa ci andiamo, le preghiere le diciamo, i 10 comandamenti li osserviamo, basta. Che si pensano che sia finito, ma questi sono principianti, d'accordo? C'era un sacerdote con cui ho lavorato insieme, avendo qualche a talora qualche punto di dissenso, però su tante cose diceva bene, che diceva: c'è gente che si pensa che andare a messa la domenica sia il massimo. Andare a messa la domenica è il minimo sindacale, non è il massimo, perché se non ci vai è peccato mortale. Ecco. Però, per fare il secondo passaggio, quindi per passare al secondo livello, c'è bisogno di una grazia attuale ancora, c'è il Giordano davanti, c'è un fiume, adesso vedremo il racconto dell'episodio. Quindi c'è bisogno di una spinta ulteriore per andare avanti. Questo ci fa comprendere, guardate che tutta la rivelazione ci fa comprendere questo, penso che ve ne siate accorti, come c'è sempre alla base un'iniziativa di Dio. Iniziativa di Dio che non deve essere un modo con cui io dico: ah bene, tanto prende Dio l'iniziativa, io dormo, no? Però deve anche essere una verità di cui noi siamo coscienti, per renderci conto delle grazie che Dio ci dà e per comprendere anche come sia importante chiederle alcune cose, perché queste sono grazie, non sono cose che dipendono da noi, ma sono doni di Dio. Il passaggio del Giordano, adesso lo andiamo a leggere, è diciamo l'equivalente dell'apertura del Mar Rosso. Quindi sapete dov'è il Giordano, no? Loro vengono dal sud, quindi dalla zona dell'Arabia, e entrano praticamente nella terra promessa dalla parte della Siria, d'accordo? Il Giordano taglia, diciamo così, la Palestina e la divide dalla Siria e poi sfocia nel Mar Morto. Quindi sono entrati da quella parte nella terra promessa. Giosuè si levò di buon mattino, si mossero da Sittim e giunsero al Giordano, lui e tutti gli israeliti. Lì pernottarono prima di attraversare. Trascorsi 3 giorni, gli scribi percorsero l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine: quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore vostro Dio e i sacerdoti leviti che la portano, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. I sacerdoti, quindi attenzione, va bene. Vi sia però tra voi ed essa una distanza di circa 2000 cubiti, non avvicinatevi, così potrete conoscere la strada dove andare, perché prima d'oggi non siete passati per questa strada. Gesù ordinò al popolo: santificatevi, perché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. E ai sacerdoti di Giosuè disse: sollevate l'arca dell'alleanza e attraversate il fiume davanti al popolo. Essi sollevarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Da parte tua ordina ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza: una volta arrivati alla riva delle acque del Giordano vi fermerete. Disse allora Giosuè: venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore vostro Dio. Da ciò saprete che in mezzo a voi è un Dio vivente, proprio lui caccerà via dinanzi a voi le 7 nazioni pagane, simbolo dei 7 vizi capitali: il Cananeo, l'Ittita, l'Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo. Ecco, l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano dinanzi a voi. Sceglietevi dunque 12 uomini dalle tribù di Israele, un uomo per ciascuna tribù. Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca del Signore di tutta la terra si poseranno sulle acque del Giordano, le acque del Giordano si divideranno. L'acqua che scorre dal monte si fermerà come un solo argine. Ora, non vi rileggo tutto quanto, perché lo stile ebraico, quando uno studia l'ebraico, è terribile. Gli ebrei dicono: il Signore disse, e dopo continua. Allora, e ripete esattamente tutte le stesse cose che hanno fatto. Quindi mettono in pratica queste cose, e arriviamo insomma alla fine. Le acque che scorrevano verso il mare dell'Arabia e il Mar Morto si staccarono completamente, così il popolo attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attraversava all'asciutto finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Anche qui dobbiamo fare la catechesi simbolico-esistenziale. Non so chi di voi ha già capito qualcosa. Allora, come si apre il fiume Giordano? Il fiume Giordano si apre al passaggio dei sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza, se no il fiume non si apre. Domanda: cosa c'era dentro l'arca dell'alleanza? Lo ricordate voi? Non solo, poi? Poi? Bravo. Dentro l'arca dell'alleanza, che poi è stata rubata, è andata perduta, c'erano queste tre cose: le tavole della legge, scritte dal dito di Dio, la manna e il bastone di Aronne, portate sulle spalle dei sacerdoti. Allora, torniamo alla metafora, stiamo al secondo livello, quindi per passare da principiante a proficiente c'è bisogno che un sacerdote, andando avanti a te, ti apra il cammino. Quindi uno, è indispensabile il ricorso all'aiuto di un sacerdote. Due, questo sacerdote deve portare sulle spalle l'arca dell'alleanza, quindi deve essere un grande sacerdote, deve essere un sacerdote doc, perché il bastone di Aronne, sapete che il bastone di Aronne, non abbiamo letto questo episodio, e fiorì quando a un certo punto Mosè chiese a Dio, dice: ma a chi dobbiamo affidare il compito sacerdotale? Perché chi l'ha detto che la tribù di Levi era addetta al sacerdozio? L'ha detto nostro Signore Gesù Cristo. I bastoni sono fioriti due volte, uno lo racconta la Sacra Scrittura, uno lo racconta un Vangelo apocrifo che però è attendibile. Sono fioriti in mano ad Aronne per far capire che lui era la tribù sacerdotale. Sapete qual è l'altro bastone fiorito? Quello in mano a San Giuseppe, quando, uscendo Maria dal Tempio, il sacerdote chiese a Dio di indicare quale uomo della tribù di Giuda avrebbe dovuto essere lo sposo della Madonna. E c'è stata un'altra fioritura. Quindi, un sacerdote doc, voi capite che la manna, vi ricordate Giovanni, il Vangelo di Giovanni nel capitolo 6, quando Gesù fa il discorso sul pane della vita? Gli dicono: ma i nostri padri, Mosè ci ha dato la manna nel deserto. E lui risponde: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Quella era una figura simbolica. E poi le tavole della legge. Che significa? Significa che il passaggio al secondo livello avviene per la mediazione di un sacerdote, d'accordo? E che tu, per passare al secondo livello, devi cominciare a mangiare la manna, non soltanto la domenica. Ecco, ad avere ben chiare quindi le tavole della legge che si danno per scontate, e ad usare bene un sacerdote che ci abbia il bastone fiorito, quindi a farti accompagnare e guidare, perché sennò non ci entri dentro la terra promessa. Non so se avete capito. Ecco, vi ho detto tante volte, ma questo è noto anche in teologia ascetica, che dici, c'è gente che si chiede: a che serve il padre spirituale? Allora, il padre spirituale non serve per convertirti dai peccati mortali. Cioè, se una persona fa una vita, come dire, al minimo, non è indispensabile che abbia il padre spirituale, perché tanto i 10 comandamenti li sa, a messa ce va, a pregare sa, se legge il libretto chiamato a catechismo la mattina e la sera, d'accordo, deve sapere i rudimenti fondamentali della morale cattolica e basta. Quindi non è che c'è bisogno di chissà quali spiegazioni eccetera. D'accordo? Di qua però no. Se vuoi diventare, vuoi progredire, non è che è indispensabile, non se ne può fare a meno, perché lì si va ad affrontare gli scontri diretti contro le nazioni nemiche, che sono capeggiate dal principe delle nazioni nemiche, e quello ti fa fuori in 5 secondi se tu non sei condotto da qualcuno che sa come si combattono le battaglie della fede. Non so se mi sono spiegato. Ok, quindi questo era per quanto riguarda il passaggio del Giordano. Poi la presa di Gerico. 2 ore di orazione mentale, per chi sa fare l'orazione mentale, su questo passo che andiamo a leggere, perché è fondamentale. come si alza. Tenete presente che Gerico nella Sacra Scrittura è proprio immagine del demonio, perché Gerico è una delle città più antiche del mondo ed è la città che si situava nel punto più basso della terra, perché la città di Gerico era vicinissima al Mar Morto, cioè al punto in cui c'è la massima depressione terrena. Quindi sarà sempre vista in letteratura cristiana come immagine del mondo del male, che bisogna radere al suolo. Ora, come si combattono le battaglie contro i nemici di Dio? Punto interrogativo. Non con lo scontro diretto, perché con lo scontro diretto c'è il massacro subito. Allora, Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli israeliti. Cominciamo a leggere. Nessuno usciva né entrava. Disse il Signore a Giosuè: io, vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re, pur essendo essi prodi guerrieri. Voi tutti due nella guerra, vedete, girerete intorno alla città percorrendo una volta il perimetro della città. Farete così per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca. Il 7º giorno poi girerete intorno alla città per 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra, allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Giosuè, figlio di Nun, adesso qui ripete come sempre in ebraico, convocò i sacerdoti e disse loro: portate l'arca dell'alleanza, 7 sacerdoti portino 7 trombe, al popolo disse: mettetevi in marcia, girate intorno alla città, eccetera. Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portarono si mossero e suonarono le trombe mentre l'arca del Signore avanzava, eccetera. Il gruppo avanzato, armato, marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca. Giosuè aveva dato questo ordine al popolo, versetto 10: non lanciate il grido di guerra, non alzate la voce e non esca parola dalla vostra bocca fino al giorno in cui vi dirò di gridare, allora griderete. L'arca del Signore percorse, girò intorno alla città percorrendo nel perimetro una volta, poi tornarono all'accampamento e passarono la notte. Così avviene il 2º giorno, il 3º giorno, il 4º giorno, il 5º e il 6º. Ok, così fecero per 6 giorni. Il 7º giorno si alzarono allo spuntare dell'alba e girarono intorno alla città 7 volte, secondo questo cerimoniale. Soltanto in quel giorno fecero 7 volte il giro intorno alla città. Alla 7ª volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo: lanciate il grido di guerra, perché il Signore vi consegna la città. Questa città, con quanto vi è in essa, sarà votata allo sterminio per il Signore. Rimarrà in vita soltanto la prostituta Rahab, apro una piccola parentesi, adesso vi dico chi è, e chiunque è in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi. Quanto a voi, guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, mentre operate la distruzione non prendete nulla di ciò che è votato allo sterminio, altrimenti rendereste votato allo sterminio l'accampamento di Israele e gli arrechereste una disgrazia. Tutto l'argento e l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati al Signore, devono entrare nel tesoro del Signore. Il popolo lanciò il grido di guerra e suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba e lanciò un grande grido di guerra, le mura della città crollarono su di esse. Il popolo salì verso la città, ciascuno dritto davanti a sé, si impadronirono della città, votarono allo sterminio tutto quanto c'era, uomini e donne, giovani, vecchi, buoi, pecore, asini, tutto passarono a fil di spada. E attenzione, adesso saltiamo un pochettino, mettono tutto a ferro e fuoco e c'è una maledizione, questo per farvi capire la maledizione di Dio. Gerico non è stata più ricostruita, In quella circostanza Giosuè fece giurare: maledetto davanti al Signore l'uomo che si metterà a ricostruire questa città di Gerico, sul suo primogenito ne gitterà le fondamenta e sul figlio minore ne riggerà le porte. Allora, questo capitolo, che potrebbe sembrare fondamentale per capire come si combattono le guerre sante. Che significa secondo voi gironzolare intorno al... significa pregare. Significa non, tu non puoi affrontare lo scontro diretto, perché lo scontro diretto, cioè le battaglie del Signore, si vincono se il Signore ti mette in mano i tuoi nemici. E il Signore ti mette in mano i tuoi nemici se tu hai la pazienza di pregare tanto, capito? Quindi sapete che nella Sacra Scrittura 7 è il numero della perfezione, quindi che tu per 7 giorni fai il giro e che il 7° giorno fai 7 giri è cosa che indica tanto. Nel capitolo precedente c'era anche la disposizione, non ve l'ho letta, con cui l'esercito del Signore procedeva, che è molto importante. C'era un'avanguardia, che hanno i soldati scelti, in mezzo i sacerdoti con l'acqua con l'arca dell'alleanza e dietro la retroguardia. Queste sono tutte figure simboliche. D'accordo? Perché l'esercito del Signore siamo noi. Nell'esercito del Signore c'è sempre stata l'avanguardia, il sacerdozio e la retroguardia. Chi sono? Nain. Lo dice San José Maria Escrivá, da una lettera. La retroguardia sono le persone che vivono nel matrimonio, sono quelle che non possono darsi al 100% e fare i panzer, i kamikaze, perché hanno famiglia. Ecco, quelli che stanno davanti sono quelli che invece si votano alla causa di Dio, quindi che rinunciano ad avere una famiglia proprio perché stanno votati. I sacerdoti devono fare i sacerdoti e portare sulle spalle l'arca dell'alleanza, già lo sappiamo che significa, quindi essere fedeli alla legge di Dio e insegnarla, usare la Santa Messa, ecco, soprattutto, e usare bene il sacerdozio che hanno ricevuto. Tenete presente che l'arca dell'alleanza è anche una figura chiara della Madonna, perché la Madonna è l'arca dell'alleanza che porta tutte queste cose. Quindi alcuni autori mariani, quando commentano questi passi, ovviamente dicono che corona dei sacerdoti è una tenera devozione alla Madonna, ovviamente, in questa visione simbolica. Quindi vuol dire che Gerico, appunto, simbolo delle, vedete Gerico in fiamme qui nella buonanotte, nella slide, si conquista con un lungo e paziente lavoro di accerchiamento. L'accerchiamento in silenzio, laborioso, fatto correndo disordinatamente con i sacerdoti che dettano il passo al suono della tromba, è la vita interiore sacramentale. Quindi la prima cosa che si deve fare quando si vuole conquistare la terra promessa, più di qualcuno di voi che dovrebbe saperle queste cose qui, è rafforzare al massimo l'unione con Dio, la vita interiore, attraverso la preghiera in senso ampio, cioè quindi non soltanto dire le preghiere, quindi imparare a pregare, imparare a vivere meglio, eccetera eccetera. Perché se questo c'è, poi cadono le mura di Gerico e cominciano a essere distrutti i roccaforti nemici, le roccaforti nemiche, e a fiorire le virtù cristiane. Non li leggiamo adesso. Nei capitoli da 8 a 12 si narrano tutti quanti i passaggi successivi, tutte le battaglie vinte. Gerico è stata la prima e la più importante. Dopodiché vengono sterminate tutte quante 7 le nazioni che abitavano la terra di Canaan, simbolo allegoricamente dei 7 vizi capitali, dicono alcuni. Sapete che ogni vizio capitale c'è la virtù contraria. I 7 vizi capitali sono superbia, avarizia, lussuria. No, t'ho sentito di sapere in ordine. Ira, invidia, acidia e gola. Virtù contrarie alla superbia è la fede, all'avarizia è la carità, alla lussuria è la speranza, all'ira è la prudenza. All'ira è la fortezza. All'invidia è la giustizia, ha la cidia e la prudenza, e alla gola la temperanza. Carus, prossima volta interrogazione, eh? Ora però, dentro questo discorso della conquista c'è un episodio molto importante, Usche, che ha causato il caso Galileo, di cui ovviamente dobbiamo parlare. C'è la presa di Ai era un'altra città, adesso andremo a vedere subito, Giosuè 10, 12, 14, la presa di Gabaon, l'episodio dei Gabaoniti, dove c'è questo miracolo del sole che si ferma. Adesso lo andiamo a leggere, e poi questo dovete assolutamente saperlo, perché qui i nostri nemici ci fanno molti ricami su questo passaggio. Gabaon, allora eccolo qui al capitolo decimo, Allora, quando Adonisedec, re di Gerusalemme, venne a sapere che Giosuè aveva conquistato Ai e l'aveva votata allo sterminio, e che come aveva fatto a Gerico e al suo re, aveva fatto ad Ai e al suo re, e che quelli di Gabaon avevano fatto pace con gli israeliti e si trovavano ormai in mezzo a loro, ebbe grande paura, perché Gabaon era grande come una delle città regali ed era più grande di Ai, e tutti i suoi uomini erano valorosi. Allora Adonisedec, re di Gerusalemme, mandò questo messaggio a Mare di Ebron, a Piram, eccetera: venite ad aiutarmi per attaccare Gabaon, perché ha fatto pace con Giosuè e con gli israeliti. Questi cinque re amorrei, con tutte le loro truppe, si radunarono insieme e andarono ad accamparsi contro Gabaon e le mossero guerra. Gli uomini di Gabaon allora inviarono questa richiesta a Giosuè: dà una mano ai tuoi servi, vieni presto da noi a salvarci e aiutaci, perché si sono alleati contro di noi tutti i re degli amorrei che abitano le montagne. Allora Giosuè salì da Galgala con tutto l'esercito e proprio i guerrieri, e il Signore gli disse: non aver paura di loro, perché li consegno in mano tua, nessuno di loro resisterà davanti a te. Giosuè piombò su di loro all'improvviso, avendo marciato tutta la notte da Galgala. Il Signore li disperse davanti a Israele e inflisse loro una grande sconfitta a Gabaon. Li inseguì sulla via della salita di Bet-Horon e li batté fino ad Azekà e Makeda. Mentre essi fuggivano dinanzi a Israele ed erano alla discesa di Bet-Horon, il Signore lanciò dal cielo su di loro come grosse pietre, fino ad Azekà, e molti morirono. Morirono per le pietre della grandine più di quanti ne avessero uccisi gli israeliti con la spada. Quando il Signore consegnò gli amorrei in mano agli israeliti, Giosuè parlò alla presenza al Signore e disse alla presenza di Israele: fermati sole su Gabaon, luna sulla valle di Aialon. Si fermò il sole e la luna rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei nemici. Non è forse scritto nel libro del giusto: se ti fermi il sole nel mezzo del cielo, non corse al tramonto un giorno intero, né prima né poi fu giorno come quello in cui il Signore ascoltò la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Giosuè e tutto Israele ritornarono verso l'accampamento di Galgala. Per chi vi ha letto questo episodio, avete capito? Quindi Giosuè fa fermare il sole per avere tempo di fare fuori tutti quanti i nemici prima del calare della notte. Allora, che succede con Galileo Galilei? Galileo Galilei si inventa il cannocchiale, guarda le macchie lunari, osserva le macchie lunari e si rende conto che la luna non era ferma come si pensava. Ecco, e sapete che dallo studio delle macchie lunari si capisce che la luna non è ferma, ma che anche la terra non è ferma. Quindi che non è vero che il sole si muove intorno alla terra, ma è vero il contrario, cosa che corrisponde alla realtà dei fatti fisici. Allora, che succede? Che qui nel libro di Giosuè c'è scritto: ferma di sole su Gabaon. Quindi la Bibbia ha sbagliato. C'è poco da cosare, eh? Scoppiò tutta quanta una questione, perché allora, il caso Galilei in realtà non è così semplice. Questa è stata l'occasione di uno degli incidenti, Però, domando a voi, la Bibbia può essere sbagliata? Però il sole non è fermo, cioè il sole è fermo e non si muove. Quindi come la mettiamo? Ma qui c'è scritto ferma di sole su Gabbon. Questo è un po' troppo semplicistico. Allora, questo è assai rilevante per comprendere, come dire, il giusto modo di accostarsi alla rivelazione ed anche il giusto rapporto tra fede e scienza. Sarà un po' un cosetto così piccolo. Allora, in che periodo stiamo ai tempi di Giosuè? Vediamo se vi ricordate più o meno la tavola storica. Va bene, stiamo nel 1200 avanti Cristo, d'accordo? Ora, qual è il senso di questo episodio? Il senso di questo episodio è che in una giornata la luce è stata di molto superiore rispetto alla norma, d'accordo? Questi testi però sono stati scritti nel 1200 avanti Cristo. Gli uomini sapevano che la terra si muoveva e il sole era fermo? No, perché gli uomini sapevano che la terra è ferma e il sole si muove. Quindi, allora, per spiegare questo episodio, pensate se avessero detto fermati terra su Gabbaon. Che novità è che la terra sia ferma? È sempre ferma. Allora, guarda, questa è una cosa anche un pochettino da contemplare, a mio avviso, perché la rivelazione, quindi la Sacra Scrittura anche, viene certamente da Dio, però bisogna sempre tenere distinti i concetti che esprime dalla forma con cui sono espressi, perché nella forma Dio si è adattato alla mentalità degli uomini e anche tra l'altro alla mentalità specifica di un popolo, particolarmente per quanto riguarda l'Antico Testamento, che è il popolo di Israele. Quindi c'è una dimensione contingente e fallace che è il rivestimento esterno, e c'è invece una dimensione immutabile ed eterna che è la verità veicolata attraverso quella forma. Allora, questa è una grande umiliazione da parte di tra virgolette, umiliazione da parte di Dio, perché per parlare con noi, questo ha sempre fatto così. Pensate anche che Dio a un certo punto si è fatto uomo, quindi cioè si adatta a noi, è un pochino come un padre che si mette a giocare, spero che tutti i vostri mariti le facciano, con i bambini, che si mette a fare il bambino se vuole giocare con il bambino. Certo, immaginate che uno riprendesse un padre che fa il bambino senza riprendere davanti il bambino, dice ma questo è fuori, questo come fa? Cioè, perché devi capire che sta giocando con un bambino, quindi quel fatto è un gesto di amore. Allora, però, secondo passaggio, quando c'è una verità, diciamo così, scientifica che entra in contrasto con la Bibbia, ci sono due possibilità: o quella verità scientifica non è una verità scientifica, per esempio è il caso dell'evoluzionismo che non è vero, oppure quella verità scientifica non è in contrasto con la Bibbia, ma c'è qualche passo della Bibbia la cui interpretazione deve essere rettificata. Perché il punto saliente di questo versetto non è che il sole si sia materialmente fermato, è che Dio è intervenuto prolungando la giornata per aiutare gli israeliti a vincere la battaglia. Quella è la forma esterna, che non poteva essere altro che questa, perché questa cosa è stata scritta nel 1200 avanti Cristo, non dopo Galileo Galilei, non nel 1600 dopo Cristo. Avete capito queste cose qui? Queste sono molto importanti per la nostra personale formazione, ma anche per rendere ragione della speranza che è in noi. San Tommaso, ve lo dico prima in latino, dice omne verum, A quocunque dici tur, traduci, ad eo est. Omne verum, quindi ogni cosa vera, ogni verità, a quocunque dici tur, da chiunque sia detta, ad eo est, da Dio viene. Se una cosa è vera, quindi non ci può mai essere vera contraddizione o contrasto tra una cosiddetta verità di fede e una cosiddetta verità scientifica. Mai. Quando il contrasto c'è, è sempre apparente. Cioè, o la verità scientifica non è verità scientifica, ma è teoria, oppure la verità di fede che si presume entri in contrasto non è una verità di fede, ma è un fatto accessorio e completamente accidentale, come in questo caso. Non so se mi sono spiegato bene, se ho fatto capire bene questo. In realtà poi il problema di Galileo era questo. Prendendo spunto da questo, vedete, la Bibbia sbaglia nel parlare delle cose scientifiche. Allora, dice, quindi, quali sono le verità assolute e certe, incontrovertibili? Quelle scientifiche. Perché su quelle scientifiche, anche la Bibbia sbaglia. Quindi la Bibbia non dice le cose che sono realmente vere, ma ci dice semplicemente dei consigli, delle esortazioni per andare in paradiso, ma non ha nulla a che fare con la verità. Ma questo non si può accettare, questo discorso, perché voi capite che accettare questo, ed è su questo punto che si è rigidita la Chiesa e ha fatto bene, perché vuol dire posporre una verità di fede che è in quanto tale eterna, valida per sempre, dovunque, in ogni luogo, ad una verità scientifica. Voi sapete che le verità scientifiche non sono immutabili ed eterne? Cioè, la legge di gravitazione, che è una legge ferrea, per cui se io prendo questo aggeggio e lo lancio qui e lo faccio 100 miliardi di volte, questo movimento in questo posto, dalla stessa distanza precisa, d'accordo? Il tempo che questo oggetto ci impiega a cadere sul tavolo è sempre irriversibilmente lo stesso. Ma già se lo faccio a 10.000 metri d'altezza non è esattamente lo stesso. Per non parlare che se esco dall'orbita di gravitazione, se lancio questo coso non cade per niente, perché rimane sospeso. Quindi queste grandi verità incontrovertibili sono vere soltanto in ambiti ben ristretti. Certo, sono vere e sono incontrovertibili, qui però, non in tutto l'universo. Capite? Va bene, non approfondiamo troppo, però facendo il libro di Giosuè era impossibile non fermarsi su questo. Ora, i capitoli dal 13 al 21 invece narrano la ripartizione, ve l'ho già accennato, del paese tra le 12 tribù di Israele, tranne la tribù di Levi, a cui viene riservato il compito del culto. Quindi sono capitoli molto lunghi, dove si comincia a dire, non lo so, che la tribù di Neftali viene dato la parte del nord della Palestina, la tribù di Aser quest'altra, la tribù di Dan quest'altra, la tribù di Giuda il territorio intorno a Gerusalemme, eccetera, eccetera, eccetera. Passiamo all'ultima diapositiva, ci sono ancora delle cose abbastanza importanti, ce la facciamo a finire oggi, sì. Ecco, qui c'è Mosè che parla agli israeliti, perché a un certo punto, conquistata la terra promessa, fatti secchi tutti i nemici, spartito il territorio, Mosè termina la sua missione, Giosuè termina la sua missione e fa un solenne discorso nel capitolo 23. Dopo questo solenne discorso, adesso leggeremo qualche sprazio, fa un ultimo grande discorso, stavolta a tutti, quindi gli fa rinnovare l'alleanza. Dunque, lo andiamo a leggere, anche questo ha uno sfondo esistenziale molto molto forte. Quindi andiamo a 23-24. Leggo qualche piccolo sprazzo, eh. Molto tempo dopo che il Signore aveva dato tregua a Israele da tutti i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio, avanti negli anni, convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici, gli scribi, dissero: io sono vecchio, molto avanti negli anni. Voi avete visto quanto il Signore vostro Dio ha fatto a tutte queste nazioni, scacciandole dinanzi a voi. Il Signore stesso, vostro Dio, ha combattuto per voi. Guardate, ripartito tra voi a sorte come eredità per le vostre tribù queste nazioni rimanenti, dal Giordano fino al Mar Grande Occidente. Il Signore vostro Dio li sperderà egli stesso dinanzi a voi e le scaccerà dinanzi a voi, come il Signore vostro Dio vi ha promesso. Vedete, iniziava con la fortezza. Giosuè è l'uomo forte. Siate forti nell'osservare e mettere in pratica quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, senza deviare da esso né a destra né a sinistra, senza mescolarvi con queste nazioni che rimangono tra voi. Mescolarvi con queste nazioni che rimangono tra voi. Allora, un particolare che prima non ho approfondito è che quando entrano a Gerico, Dio gli ordina di distruggere tutto, non potevano prendere neanche uno spillo per sé. E qui continua a dire: non mescolatevi con le nazioni che rimangono fra voi, non invocate i loro dei, non giurate su di loro, non servitevi e non prostratevi davanti a loro. L'interpretazione spirituale, diciamo, di questi passaggi consiste nel questo: che non si possono fare accomodamenti o mezze misure con ciò che non va bene dinanzi a Dio. Noi tutti quanti tendiamo a fare questo, però bisogna sempre chiedere consiglio, che la misura poi di queste cose è molto difficile da stabilire nei casi concreti. Cioè, che facciamo? Si può fare qualche piccolo compromesso con le forze del nemico, concedere qualche piccola cosa, se no poi uno esagera? Non si può. Ecco, è soltanto che poi bisogna discernere nei casi concreti quali sono, quali sarebbero queste concessioni che non devono essere fatte. Comunque la regola è questa, perché se tu dai tanto così, questo vi parlo anche per esperienza, apri uno spiraglio, cioè al diavolo non serve che si aprono le autostrade, basta uno spiraglio per ritornare a casa sua. Paolo VI nel 1974, famoso discorso sulla condizione della Chiesa, disse: da qualche parte, da qualche fessura, il fumo di Satana è entrato nel Tempio di Dio. Da qualche fessura, perché sapete benissimo che il fumo, perché entri, non c'è bisogno che teniamo aperto, spalancato un portone, basta un buco. Allora, c'è una regola generale della teologia ascetica che è questa: che conquistate le roccaforte nemiche non devi dare nessun tipo di adito e spazio al nemico perché ritorni dentro di te. Quindi non si possono accettare compromessi, non si può fare un po' e un po'. Tenete sempre presente che si entra in terra promessa guidati da qualche sacerdote, per cui poi nelle circostanze concrete particolari determinare quale comportamento sia un cedimento e quindi una perdita di terreno e quale non lo sia non è sempre facile, per cui bisogna chiedere consiglio ad una persona che sia saggia. Andiamo avanti. Restate fedeli al Signore vostro Dio come avete fatto fino ad oggi. Il Signore ha scacciato dinanzi a voi nazioni grandi e potenti, nessuno ha potuto resistere a voi fino ad oggi. Attenzione, numero 12: ma se vi volgete indietro e vi unite al resto di queste nazioni che sono rimaste fra voi e vi imparentate con loro e vi mescolate con esse ed esse con voi, sappiate bene che il Signore vostro Dio non scaccerà più queste nazioni dinanzi a voi. Essi diventeranno per voi una rete e una trappola, flagello ai vostri fianchi e spine ai vostri occhi, finché non sarete spazzati via da questo terreno buono che il Signore vostro Dio vi ha dato. Quindi, gli sta facendo le raccomandazioni, la cosiddetta paternale: attenzione a quello che fate ora che il Signore vi ha dato la terra promessa. E nel capitolo 24, allora, è bellissimo. La prima cosa che fa Giosuè è ricordare, e questo fa sempre bene anche a noi, tutte le opere salvifiche da Dio compiute. Guardate, questo aspetto è un aspetto fondamentale. E noi dobbiamo imparare costantemente e farlo possibilmente tutti i giorni a ricordare le opere buone che Dio ha compiuto con me, cioè non dimenticarle mai. Guardate, parte proprio dalle origini. Così dice il Signore Dio di Israele: nei tempi antichi i vostri padri, da cui Terach addirittura, padre di Abramo, abitavano oltre il fiume. Il fiume con la F maiuscola è il fiume Eufrate, quindi estremo oriente, Iraq. Io presi Abramo, la conosciamo la storia, vostro padre, da oltre il fiume, e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicare la sua discendenza e gli diedi Isacco, a Isacco di Giacobbe ed Esaù. Assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. Tutte cose che noi già sappiamo. In seguito mandai Mosè e Aronne e colpì l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso, le 10 piaghe, e poi feci uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli egiziani, sospinsi sopra di loro il mare che li sommerse, i vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto, 40 anni. Vi feci entrare nella terra degli Amorrei che abitavano a occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra. Voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, sono tutte le battaglie che abbiamo saltato, figlio di Beor, perché vi maledicessi. Ma io non voglio ascoltare Balaam ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, i Gergesei, gli Evei, i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ora dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Vedete, prima di dare, gli ricorda. Cioè, guardate, questo è vero anche per noi, cioè i fondamenti dei nostri obblighi verso il Signore è che Lui ci ha dato tutto. Tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi abbiamo, viene da Lui. Per questo che a Dio è dovuto tutto, perché Lui ci ha dato tutto. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. E poi gli dice, glielo chiede, che cosa volete fare? Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, non c'è altra possibilità. O gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi dell'Amorrei nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Il popolo rispose: lungi da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi. Poi vedremo la prossima volta quando sono stati fedeli a questo qua. Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto uscire noi e i nostri padri dalla terra d'Egitto, dalla condizione di servire, eccetera, eccetera. Bene, perciò anche noi serviremo il Signore perché Egli è il nostro Dio. Poi Giosuè dice, sta attenti, voi non potete servire il Signore perché è un Dio santo, un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli si volterà contro, vi si volterà contro, e dopo avervi fatto tanto bene vi farà del male e vi annienterà. Il popolo rispose: no, noi serviremo il Signore. Allora Giosuè disse: guardate che voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto il Signore per servirlo. Risposero: siamo testimoni. Eliminate allora gli dèi degli stranieri che sono in mezzo a voi e rivolgete il vostro cuore al Signore Dio di Israele. Il popolo di Israele rispose a Giosuè: noi serveremo il Signore nostro Dio e ascolteremo la sua voce. Quindi gli israeliti hanno fatto tutti quanti la cresima, d'accordo? Certo, hanno ratificato tutte quante le loro volontà di stare a fianco al Signore. Il problema è che, come i giovanotti che fanno la cresima, dopodiché hanno il dono, diventano gli uomini e le donne invisibili, cioè fanno Vedremo dalla prossima volta in poi che, ahimè, purtroppo questa brutta malattia ha origini remote e lontane nel tempo, cioè datata circa 1100 e rotti avanti Cristo. E quindi tutte quante queste belle promesse che sono necessarie, perché vedete, perché il Signore ci tratta da persone libere, quindi prima ti fa vedere le sue opere, tu piano piano lo segui, dopodiché ti chiede alcune ratifiche. Ratifiche importanti, che sono delle tappe fondamentali, che poi però devono essere vissute. Allora, questo è in tutta la dinamica sacramentale. Noi siamo, adesso ci ho scherzato un po' con la cresima, ma è realmente così. Perché la cresima sarebbe una ratifica personale di impegni che altro hanno preso per voi, una ratifica personale che viene al termine di un cammino, di un itinerario dove tu dovresti aver imparato alcune opere di Dio. Siccome per molti poi questa cosa diventa nulla, arriva San Luigi Maria Monforte che dice: sta attento, ecco, ti propone la vera devozione alla Madonna come consacrazione perfetta di te a lei, dice: guarda, quando fai questa cosa, e questa cosa non si può fare a cuor leggero, ma va fatta dopo un lungo itinerario, tu di fatto ratifichi volontariamente e ti impegni tu con tutte le tue forze a vivere da cristiano. Ovviamente fatta questa cosa non è che poi è finito, ma non devi fare come gli israeliti che fanno bla bla bla, bla bla bla, noi serviremo, siamo testimoni contro di noi, e poi dalla prossima volta con l'epopea dei giudici vedremo quello che combinano. Vi preannuncio che la storia seguente è un continuo. Israele ricominciò a fare ciò che è male agli occhi del Signore e Dio li mise nelle mani dei nemici. Dopo che stettero nelle mani dei nemici, gridarono al Signore e Dio suscitò un giudice, a cominciare da Deborah, Gedeone, Uffa, Sansone, eccetera, eccetera. E vedremo tutte quante le vicende di questo popolo non troppo fedele, e invece Dio rimane sempre fedele. Nei versetti 29-30 del capitolo 24 è descritta la morte di Giosuè. Quindi Mosè fa uscire Israele dall'Egitto, Giosuè li conduce nella terra promessa, queste prime due grandi tappe della vita interiore. Arrivati nella terra promessa, uno dovrebbe fare il terzo passaggio, quindi la perfezione, e invece purtroppo, come vedremo, inizia la regressione verso il basso, perché c'è sempre purtroppo questa variabile con cui dobbiamo fare i conti, che dobbiamo combattere. E gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sarebbe. Thank you.